Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: parleremo di banche, ma anche purtroppo di ferrovie. È chiaro che il lutto è totale per quello che è successo ieri e soprattutto sta indagando la magistratura. Non ci occuperemo certo dai dati di cronaca, su quello vi sono già i nostri GR 24, però, purtroppo ci sono anche degli elementi di carattere economico lì dentro, poi ne parleremo, perché al di là di quello che sarà dimostrato essere errore umano, errore tecnico, vedremo, ci mancherebbe. Però tutti puntano l'indice sul metodo di trasmissione telefonica nella gestione di questi treni e sul binario unico. Ora, non possiamo non parlarne anche da un punto di vista economico, perché è emerso chiaramente come il programma europeo di finanziamenti infrastrutturali 2007-2013, vuol dire 9 anni fa, stanziava 180 milioni di euro per l'Italia per l'ammodernamento e il raddoppio della linea Bari-Barletta. Ecco, allora, è ovvio, dice, ma in questo momento tu parli di soldi e non sappiamo ancora se è stato un errore umano. Certo che non sappiamo nulla e aspettiamo il responso degli inquirenti, però è ovvio che di questi 180 milioni non è stato usato ancora un euro praticamente, grazie ai ritardi che coinvolgono la Regione Puglia, Ferrotranviaria, SPA, la società privata che gestisce la tratta. Pensate che solo nel 2013 iniziano i primi espropri dei terreni, dopodiché mancano ancora le gare d'appalto. Siccome spesso ricordiamo come il patto di stabilità, l'Europa, l'austerità tedesca abbia posto vincoli agli investimenti e quant'altro, ma una volta che i soldi sono già stati decisi e nel 2007... qui c'è una responsabilità oggettiva, non per quello che è successo, ma per il mancato raddoppio di una linea. E soprattutto è inaccettabile vedere che, come altre volte abbiamo raccontato su altri casi, 180 milioni di euro vengono lasciati lì per incapacità Regione Puglia e Ferrotranviaria. Tra l'altro, insomma, racconteremo anche cos'è questa Ferrotranviaria, perché noi ci siamo sempre occupati delle ferrovie del sud-est, e cioè il 480 km binari che attraversano 80 comuni pugliesi, azienda commissariata, poi lo racconteremo, la gestione Fiorillo, qui non c'entrano. Però voglio dire, il problema è che in tutta la Regione Puglia la situazione ferrotranviaria è oggettivamente incredibile. Vi arriviamo. La linea Bari-Barletta è lunga 70 km, a doppio binario c'è solo la tratta Fesca-San Girolamo-Ruvo, sono 33 km, 37 chilometri a binario singolo, con 200 treni al giorno che transitano a una velocità media di 100 km all'ora. Non sono pochi 200 treni al giorno, soprattutto se li devi regolare con la telefonata, che è questo l'altro aspetto che sta emergendo. Quindi c'è un problema di investimenti, e anche perché i 180 milioni di euro, recitava l'Europa, sono per ammodernamento e raddoppio, non solo per il raddoppio. Quindi adesso vi arriviamo, non voglio parlarne subito, anche se sarà il primo tema. Poi parleremo di banche, dicevo, perché cosa c'entra il binario unico con la sicurezza? Non so, visto che si fa una domanda, facciamo come Marzullo, si dia anche una risposta. Non ho detto che passa l'equazione binario unico uguale pericolo, perché esistono tante linee di binario unico, sorvegliate meglio. Ho detto solo che, visto che uno dei motivi citati è la gestione di una linea binario unico attraverso le telefonate, e quindi un metodo assolutamente, diciamo così, primordiale, ci sono 180 milioni di euro dal 2007 stanziati dall'Europa per ammodernare e raddoppiare la linea. Tutto qua, ok? Nessuno sta dicendo che un binario unico non possa essere ben gestito se ammodernato, se e utilizzando le tecnologie. Ma arriviamo tra un secondo, perché, dicevo, delle banche, nonostante il fatto che tutti indichino una maggiore volontà, diciamo, della Germania, perché quello è, e quindi la cancelliera Merkel, che si possa risolvere bene la situazione delle banche, quindi anche le banche italiane, Lo stesso ministro tedesco Schäuble ha detto che ci sono margini per un intervento dell'Unione Europea sulle banche italiane. Padoan a Bruxelles ha difeso il sistema italiano, che dice certo che ha subito 3 anni di recessione profonda, ma ne sta uscendo nonostante poche specifiche criticità. Oggi davanti al GUP è finito intanto l'ex presidente di Popolare Etruria, Fornasari, però il risultato in borsa non si vede ancora tantissimo, si vede sul Monte dei Paschi un po', più 5-60%, perché ieri sono uscite indiscrezioni su un'accelerazione del piano di cartolarizzazione, cioè cessioni di queste sofferenze mettendole sul mercato. La BCE ha chiesto di cedere 10 miliardi in 3 anni. Al lavoro sul dossier vi sarebbero la banca d'affari JP Morgan, mentre Fondatlante starebbe lavorando a una riapertura delle sottoscrizioni per avere denaro fresco da destinarsi appunto all'acquisto di sofferenze bancarie. Mentre Monte dei Paschi ne risente positivamente, tutto il resto no. UbiBanca perde 6,5%, Banco Popolare meno 6%, Pop Emilia Romagna meno 5,40%, Pop Milano meno 4%, Unicredit meno 4%, Unipolsai meno 3%, Mediolanum meno 2,60%, Unipo meno 2,60%. Bene, oltre al Monte dei Paschi, Luxottica più 3,70%, Saipem più 2,5%, Ferragamo più 2,30%, Mediobanca più 1%, come Moncler, Yux Saint Laporte più 0,80%. L'indice complessivamente perde l'1,11%. Mentre Parigi è positiva di uno 0,20, Francoforte perde lo 0,30, Londra più 0,30, Dow Jones in questo momento invariato. 349-238-6666 per i vostri sms poi come sempre e WhatsApp e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Quindi parleremo oggi di investimenti nella rete ferroviaria del sud in Puglia, in particolare delle ipotesi sulle banche e sul Monte dei Paschi nello specifico, e poi parleremo anche di turismo, nel senso che la stagione è ormai iniziata, ma ci sono dei temi, se riusciamo oggi ad affrontare, ma ci sono dei temi che ci lasciano assolutamente basiti. Cioè, noi siamo ancora un paese che, nonostante la retorica sul nostro giacimenti come se fosse il nostro oro nero, i giacimenti turistici, perdiamo posizione nel corso degli anni, un'incapacità delle istituzioni di ascoltare anche gli operatori, infatti avremo 3 importanti operatori, e perdiamo posizioni rispetto a paesi che insomma non hanno nulla diciamo più di noi. C'è un problema anche di infrastrutture, ma politiche messe in atto assieme alle istituzioni, ne parleremo. E poi c'è delle volte anche una responsabilità dei singoli operatori, albergatori in primis, però affronteremo il tema, perché è inutile poi parlarne quando la stagione è finita. Allora, andando sulle notizie internazionali, per quello che riguarda l'economia internazionale, oggi le esportazioni cinesi, non oggi ma il dato di oggi, sono calate a giugno rispetto all'anno prima del 4,8%, più delle attese. Importazioni hanno fatto meno 8,4, le attese erano meno 5%, ma le esportazioni hanno fatto meno 4,8 contro un 4%. Resta Pechino in un attivo commerciale di bilancio per 48 miliardi di dollari nel solo mese di giugno. Veniamo all'Europa. Nel giorno di Theresa May, che per 6 anni è stata ministra dell'interno e anche custode di una linea dura sull'immigrazione, oggi è entrata al famoso numero 10 di Downing Street, nel giorno in cui però Angela Merkel, quasi coetanea, devo dire due caratteri duri tutti e due, sia quello della May che della Merkel, e tra l'altro è interessante che sono due donne quasi coetanee con un carattere bello forte, tutte e due figlie di un ecclesiastico, cioè, non si può dire di un prete ovviamente, ma di un ecclesiastico sì. Ebbene, dicevo, Angela Merkel ha fatto sapere che il negoziato per trovare un nuovo modus vivendi tra Gran Bretagna e Unione Europea sarà in salita. Chi vuole avere accesso al mercato unico deve accettare in cambio tutte le libertà fondamentali, comprese la libertà di movimento delle persone. Ora, non so se sorprenderò qualcuno, ma posso dire che questa volta la Merkel ha ragione? Nel senso che se tu hai fatto il referendum, lo sei votato, benissimo, siete contenti di essere usciti, benissimo, non c'è nessun revanchismo, però Non è che adesso prendi solo la parte buona e fai, se vuoi avere dei trattati con l'Unione Europea devi accettare tutte le libertà, se no resti in uno stato esterno all'Unione Europea. Ora, io dico una cosa, poi gli inglesi mi sorprendono sempre di più, i britannici, perché hanno perso il pragmatismo per alcuni versi, ma poi hanno perso anche uno stile britannico. Sembra più un politico inglese oggi David Cameron, nell'intervista che concede al Daily Telegraph, un quotidiano filo conservatore, quindi vicino al partito di Cameron, perché è tutta un'intervista in positivo: il paese più forte, lascio un paese più forte, ho avuto per 6 anni il privilegio di servire il paese che amo. Praticamente glissa moltissimo sull'esito del referendum. Cioè, a me sembra follia sentire uno che dice dopo quello che è successo lascio il paese più forte. Comunque, a fine agosto vi sarà un nuovo vertice, sarà in Italia, una nuova trilaterale tra Matteo Renzi, quindi il premier italiano, la cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente francese François Hollande, per affrontare i temi legati alla Brexit. Sempre in tema non di Brexit, ma diciamo United Kingdom, o Great Britain per essere più precisi, oggi il PIL dell'Irlanda ha diffuso i dati sul PIL e si scopre che è cresciuto del 26%, non sto scherzando, il 26%. Ha rivisto a rialzo i calcoli su tutto il PIL lordo nel 2015, l'Istat irlandese, già c'era una previsione altissima, più 8%, ma in realtà più 26%. Secondo il Financial Times, però, le stime, le statistiche di Dublino vanno prese con cautela. Dice: gli irlandesi hanno scritto alcune notevoli opere di finzione, James Joyce, Flannery O'Brien. Ora c'è una nuova aggiunta all'opera, la narrativa ufficiale dell'economia del paese. Vabbè, insomma, un po' irriverente anche il Financial Times. Comunque, su questo si concentrano i 100 secondi di Radio 24, Sole 24 Ore, trasmessi anche su Radio Dimensione Suono, oggi a firma del vice direttore Alberto Orioli. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. L'Irlanda torna di nuovo nei panni della celebre tigre celtica, almeno stando ai dati sulla crescita del PIL. Sentite cosa ha comunicato ieri l'Istituto di Statistica di Dublino. Ha detto che il prodotto interno lordo dell'Irlanda nel 2015 è cresciuto del 26,3%, in precedenza era stimato in un più 7,8%, che sarebbe già stata di per sé un'ottima performance. Le statistiche possono essere strumentalizzate, ma un caso così eclatante merita qualche parola di riflessione. Nel primo trimestre del 2016 il PIL di Dublino è calato del 2,6% e la crescita su base annua nel primo trimestre è stata del 2,1%. Quindi, ma che succede in questo dedalo di numeri? Succede che l'Irlanda ha beneficiato del trasferimento di sede di molte multinazionali attratte dalla tassazione al 12,5% sulle società, che rende il territorio irlandese tra i più fiscalmente attrattivi. Pesa anche il fatto che sono aumentati il numero di aerei importati con contratti di leasing, e questo può ben definirsi l'effetto Ryanair sul PIL. Il balzo, che va detto è un una tantum, porterà il rapporto con il debito al di sotto della soglia super virtuosa dell'80% rispetto a un ben più preoccupante 120% che era lo standard per Dublino. È comunque un fuoco di paglia statistico, non c'è che dire, ma un segnale da considerare rimane. Dopo Brexit, la possibilità che molte delle società inglesi trasferiscano le loro sedi in Irlanda non è solo una voce, e Londra sicuramente dovrà tenerne conto. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, mi scrivono un ascoltatore che dice: lei si sta arrampicando sugli specchi per dar la colpa al pubblico di un errore del privato. No, guardi, adesso parleremo delle ferrovie e anche della ferrovia pugliese, ci mancherebbe, di ferrotranviaria. Non abbiamo mai dato la colpa al pubblico quando l'errore era del privato. Ho solo detto che per le incapacità e i ritardi della Regione Puglia e di Ferrotranviaria SPA, 180 milioni di euro per l'ammodernamento e il raddoppio della linea non sono ancora stati usati, si è iniziato a espropriare i terreni, si capisce. Potevano usarli anche per avere un controllo non manuale, non col telefono, ma satellitare della linea. Non c'era scritto solo per il raddoppio, ma adesso ci arriviamo, un attimo di pazienza, perché a proposito di pubblico e privato, noi abbiamo una classifica tutti i venerdì sugli sprechi della pubblica amministrazione, e spesso abbiamo detto, perché nel settore privato poi uno risponde agli azionisti, e non sono soldi nostri, però poi ci sono anche elementi di opportunità. Lo dico solo come elemento di opportunità, visto che poi parleremo di banche. Nel giorno in cui la Germania ha collocato un bund a 10 anni e con tasso negativo, cioè presti soldi alla Germania per 10 anni e ottieni meno soldi nominali di quelli che hai prestato, meno 0,05%, la nostra asta di BTP a 3 anni è tornata in negativo, meno 0,04%. Ma dicevo, in questi giorni in cui stiamo parlando di banche, della tenuta del sistema bancario, di Monte dei Paschi, ma non solo, delle sofferenze accumulate in questi anni, del fatto che siano state accumulate perché le società, perché in alcuni casi avevano prestato i soldi male agli amici, ma in altri casi li hanno prestati a imprese spesso sottocapitalizzate che comunque sono fallite nel corso della crisi. Però detto questo, sentite un po' che cosa è successo agli stipendi dei banchieri nel 2015. I manager delle 8 principali banche, allora tutto possiamo dire, ma non possiamo dire che le banche italiane nel 2015 sono andate bene in borsa e hanno fatto dei gran numeri, va bene? Ma io non dico che sia colpa dei manager, dico solo che non hai dei risultati da portare a casa. Allora, le 8 principali banche italiane hanno visto salire, nelle 8 principali banche italiane, gli stipendi sono saliti del 10% più 9,7%, mentre a livello mondiale la media è stata dello 7,6%. Perché abbiamo già raccontato la cuccagna di Gianni Zonin, che saluta la Banca Popolare di Vicenza, che ha distrutto, ma soprattutto ha distrutto i risparmiatori della banca con un bonus di 1 milione di euro. Altri 5 ex dirigenti della Pop Vicenza si portano a casa 5 milioni 200 mila euro. Poi nel 2014 Luca Bronchi ha lasciato Banca Etruria sull'orlo del crack e viene premiato con la liquidazione da 1 milione 200 mila euro. Tutto in regola da contratto, eh? Nel 2015 Consoli lascia Veneto Banca, distrutta la banca, distrutti i risparmiatori, e in regola da contratto prende 900 mila euro per 7 mensilità di lavoro e mancato preavviso. Ma uno così devi fare un'azione risarcitoria, no? Mancato preavviso. E Consoli ha fatto causa contro la banca chiedendo altri 3 milioni e mezzo. Quando lo vedete lì dove abita a Treviso, fateglielo notare verbalmente, ci mancherebbe. Ghizzoni ha lasciato Unicredit quest'anno, ha incassato 10 milioni di euro. Io non dico che la colpa sia solo di Ghizzoni, ma il titolo ha perso il 64% durante il suo mandato. Porca miseria. Allora, da qualche parte, no, vogliamo anche legare questi stipendi a un risultato. Oppure diciamo che va bene così, Madame la Marchesa, e stiamo tutti quanti allegri. È sempre allegri bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco e al cardinale, diventan tristi se noi piangiamo. È sempre allegri bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco e al cardinale, diventan tristi se noi piangiamo. Vabbè, ultima notizia delle notizie in breve. Invece oggi l'osservatorio sul mercato immobiliare, quello presentato e curato da Nomisma, dunque l'anno in corso dovrebbe concludersi con circa 470.000 compravendite di case in Italia. I segnali di ripresa ci sono del mercato immobiliare, anche se deboli, sia nel settore residenziale che negli immobili per le imprese. Però sono preoccupati anche tutti gli operatori del settore immobiliare delle incertezze che potrebbero nascere, dell'instabilità che già è nata post Brexit e dei crediti bancari inesigibili. Come ha spiegato la nostra Deborah Rosciani, il curatore del rapporto Nomisma sul mercato immobiliare, Luca Dondi. Il monitoraggio racconta di un miglioramento in atto, anche se meno intenso rispetto a quelle che erano le prospettive che si erano diffuse sul finire lo scorso anno e nei primi mesi di questo. Oggi la tendenza prevalente è all'attesa per capire quali sono le evoluzioni dal punto di vista macro, e in questo quadro l'elemento Brexit è un elemento di incertezza e instabilità in un quadro già fragile, che certo non aiuta le prospettive di un settore che si stava faticosamente rialzando. In che cosa nello specifico se ne temono gli effetti? ma sulla domanda, sulla prospettiva di rivalutazione che il settore in qualche modo accarezzava, avendo già registrato una flessione pesante dal punto di vista dei valori, oggi invece prevale l'attendismo e questo si riflette su una prospettiva di stagnazione che tiene lontani gli investitori e in qualche modo allunga il tempo di latenza di una crisi che è stata già eccessivamente lunga. Il sistema bancario sta provando a risolvere la delicatissima partita dei crediti inesigibili, dei non performing loans. Secondo lei questo momento di incertezza su questo argomento come si potrà riflettere sull'andamento del settore del credito e di conseguenza sull'erogazione di nuovi mutui alle famiglie italiane? Ma innanzitutto si riflette con un rallentamento delle erogazioni proprio legato alla mancata soluzione di un problema che sta diventando particolarmente gravoso. In prospettiva, nel caso in cui si dovesse arrivare ad un'accelerazione che ancora oggi non è alle viste, ci sarà un problema di tenuta dei valori immobiliari, perché nel momento in cui si procede con un'operazione di smobilizzo di una componente che ha garanzie immobiliari rilevanti, bisognerà preoccuparsi di quali saranno gli effetti dell'immissione sul mercato di queste garanzie una volta che passeranno di mano da un soggetto attento al mantenimento del valore come è il soggetto bancario oggi rispetto a un soggetto opportunistico che ha portato a casa quel portafoglio a valori impliciti molto più contenuti, per cui ci sarà sicuramente un elemento positivo in termini di alleggerimento delle banche, però potrà esserci un effetto pericoloso per quanto riguarda la stabilità del mercato, soprattutto dal punto di vista dei prezzi. Adesso purtroppo, lo dico in primo luogo per le 27 vittime e i feriti, apriamo una pagina che abbiamo sempre trattato per gli sprechi diciamo, per esempio delle ferrovie del sud-est, 400 in Puglia, 480 km binari che attraversano 80 comuni, azienda commissariata in rosso da 300 milioni di euro gestita per 20 anni da Luigi Fiorillo. L'abbiamo raccontata molte volte questa storia, cioè, di tutto, non c'entra sud-est con la Ferrotramviaria SPA, azienda privata controllata dai discendenti del conte Ugo Pasquini, che comprò la linea nel 1937. Il presidente è Gloria Pasquini, sorella del finanziere Enrico Pasquini, condannato per evasione fiscale a San Marino nel 2014. Poi se quello ascoltatore mi scrive ancora che noi non parliamo dei privati, mi sente oggi. L'azienda è finanziariamente in salute grazie agli introiti del collegamento con l'aeroporto di Bari, quello sì, costruito con 71 milioni di euro di fondi europei. Il direttore generale di Ferrotramviaria, Massimo Nitti, ha rilevato che l'unica stazione di incrocio è quella di Andria. Quel treno che scendeva da Andria, lì non ci doveva essere. Allora, sul banco degli imputati, l'abbiamo letto, il sistema blocco telefonico che regola la circolazione ferroviaria in quella tratta binario unico. Infatti, su 70 km a doppio binario ci sono solo 33 km da Fesca a San Girolamo a Ruvo, e al binario singolo gli altri 37, con, se ho ben capito, 200 treni al giorno che transitano. Ho capito, poi arriviamo però anche ai 180 milioni mancanti. C'è l'inviato del Sole 24 Ore, Mariano Maugeri, che è chiaramente nella zona dell'incidente. Buonasera Mariano. Ciao, buonasera agli ascoltatori. Che immagino, non che cambi molto se uno è pugliese o non pugliese, ma per te insomma siano cose che conosci molto bene, essendo anche la tua regione. No, io sono siciliano, hai ragione, però sei sempre in Puglia perché abbiamo seguito lì, Puglia, esatto, quindi... Allora, vedi che ho fatto confusione io perché ti abbiamo avuto spesso in collegamento dalla Puglia, sì. Però Mariano, poi arriviamo ai soldi del non spesi, perché divento pazzo su questi 180 milioni di euro che l'Unione Europea diede per il periodo 2007-2013 a disposizione della linea Bari-Barletta e sì, per ammodernare e raddoppiare, non è solo raddoppio, anche l'ammodernamento, esatto, era pagato. E tra l'altro i fondi che sono ancora in larghissima parte inutilizzati per ritardi che coinvolgono tutti Regione Puglia e Ferrotramviaria. Pensate che nel 2013 hanno iniziato solo i primi espropri dei terreni. Però dacci un aggiornamento su quello che si sta capendo, anche se da quello che ho visto io insomma, sembra che l'errore umano sia sempre... Bravo, vai. È di una semplicità disarmante, questo colpisce ancora di più. È un errore umano, il capostazione di Andria, adesso non vogliamo gettare la croce addosso a nessuno, però ha comunicato e si è capito male con l'altro capostazione, erano sei protagonisti di questo dialogo, diciamo, i due macchinisti, i due capitreno e i due capistazione. E quattro di questi sei sono morti, i macchinisti e i capitreno. I due capistazione si sono capiti male, hanno comunicato una cosa sbagliata. Tutte le attenzioni sono concentrate appunto sul capostazione di Andria, che avrebbe dato un segnale di falsa partenza, cioè ha detto al treno di andare e invece doveva tenerlo ancora lì perché in direzione opposta ne arrivava un altro. Ma la cosa sconvolgente sono i sistemi di sicurezza inesistenti. Cioè noi siamo come 80 anni fa, paletta e telefonata. Se questo è un modo, come dire, di operare, sai benissimo che la rete ferroviaria italiana, anche quella a binario unico, cioè gestita appunto da RFI, ha in uso sistemi di controllo dappertutto. E in Puglia questa tratta gestita da privati, ai privati si fa lo sconto e si dice vabbè, visto che tu non hai fondi pubblici ai quali possiamo accedere noi, sulla sicurezza adotta il sistema vetusto. Però qui adesso poi chiamiamo in causa anche il direttore generale Massimo Nitti, la presidente Gloria Pasquini, perché non mi va mica tanto bene questo ragionamento, perché io voglio capire perché 180 milioni di euro non vengono utilizzati per ammodernare, ma allora, vengono utilizzati per il collegamento con l'aeroporto di Bari. Resta con noi Mariano, perché ho le pubblicità e il meteo. Devo solo rispondere a un ascoltatore che scrive, evidentemente il caldo fa strani scherzi, sono 150 anni che le ferrovie funzionano con il blocco telefonico, l'ammodernamento non c'entra nulla. Ma lei si rende conto di cosa sta scrivendo? Cioè come se dicesse, è 150 anni che si usava il carbone e c'erano gli indiani che assalivano i vagoni, ma che cavolo vuol dire? Proprio perché non siamo a 150 anni fa e il blocco telefonico è strasuperato in tantissime altre reti a binario unico, l'ammodernamento è tutto. Perché tu puoi anche... Allora, l'errore umano non deve capitare e ci sono un po' delle responsabilità individuali di carattere penale. Ma io non è che posso lasciare la rete ferroviaria a uno che magari quella sera è drogato e basta. Cioè, il backup esiste, la tecnologia te lo permette. E poi Mariano ci racconterà come. Tant'è che in altre reti a binario unico non è pensabile che semplicemente per un errore umano, una distrazione, una stanchezza, quello che vuoi, parta un treno mentre sta arrivando un altro treno. Di questo si è trattato. Comunque, dopo il meteo. Focus Economia. Di nuovo in diretta. Allora, ha ragione il presidente, l'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, che la polemica adesso sul binario unico è una polemica assurda. Infatti noi stiamo parlando di ammodernamento, ci sono 2700 km di binario unico in Italia. Il problema, come scrivono alcuni ascoltatori, è il sistema, oddio me lo son perso, il sistema controllo treno in marcia, marcia treno, che è vero Mariano, che è quello che hanno SCMT, ma il più tecnologico e il più costoso, ne esistono anche di più semplici, è tipo il blocco con tassi utilizzato già 30-40 anni fa, che svolgono lo stesso lavoro e sono altrettanto efficienti, efficaci. Lì il problema è che non c'era nessun sistema, come giustamente dici tu, di backup, e questo ha creato l'incidente. Bisogna avere l'onestà di ammetterlo. Oh, allora andiamo sulla responsabilità. Scusa, sì, per io oggi in Parlamento la deposizione, sì, l'audizione, diciamo, ha riferito al Parlamento sull'incidente. Ha detto è un sistema vecchissimo, non è degno di un paese civile, perché la mobilità, il diritto alla mobilità è un diritto fondamentale di ogni cittadino. Quindi l'ha detto il ministro delle infrastrutture, che però si è guardato bene dal emanare una legge che prevedesse per tutte le ferrovie in concessioni o secondarie l'adozione di questi sistemi, perché anche questo va sottolineato, non esiste nessuna legge in materia. Quindi è poi strano che il ministro dica ma il diritto alla mobilità non è stato in qualche modo tutelato, perché perché Del Rio ci la pelle. Del Rio ha chiarito che una legge basterebbe una legge. Infatti, vedi, ma poi vedi come che paese siamo, è o tutto o niente. Adesso Del Rio dice che a giorni sarà chiusa la gara per il raddoppio della tratta. Va bene, anche perché a parte adesso, ma non è il raddoppio cioè non è il binario unico aver causato l'incidente. Il raddoppio della tratta fatelo, perché a quel punto la sicurezza è più alta ancora. Ci mancherebbe, ma esistono tantissime reti a binario unico in cui non si muore, possiamo dirlo questo, con le FCMT che dice che costa tanto o con gli altri, o con gli altri sistemi. Il problema è perché e a chi va la responsabilità al di là dell'errore umano. Però ripeto, tu non puoi lasciare nel 2016 al solo errore umano la gestione se vivo o muoio quando prendo un treno, perché esistono in tutto il mondo... sistemico dice: se lui è ubriaco, se è drogato, se ha un malore, se è fuori di testa, cioè se è umano, no? Io ho un sistema nel 2016 per cui non c'è più il carbone e gli indiani che assaltano, ma ho un sistema per cui riesco anche a bloccare l'errore umano. Ora, chi non ha voluto fare l'ammodernamento? Ferro Tranviare S.p.A., la Regione Puglia, chi doveva obbligare il privato a dire no, così non circoli? Lo Stato. Perfetto, quindi né la Regione né Ferro Tranviaria? No, perché ci sono degli enti dello Stato, l'Agenzia Nazionale e in questo caso l'Ustif di Bari, che ha proprio questo compito. No, dimmi il nome di nuovo, scusami. L'Ustif. Sì, è un acronimo di ufficio periferico, gli uffici periferici del Ministero delle Infrastrutture che sovrintendono sul controllo e sulla costruzione di nuove linee ferrate e quindi verificano che gli appalti siano eseguiti a regola d'arte. E però giustamente all'Ustif mi hanno detto questa tratta rispettava tutte le regole e tutte le norme di leggi esistenti. Se arrivasse una nuova legge, evidentemente le ferrovie gestite da un privato dovrebbero armonizzarsi, dovrebbero applicare queste leggi e quindi dotarsi di sistemi di controllo. Di più, l'SCMT che tu citavi sarà adottato e sarà installato quando ci sarà il doppio binario, quindi quando, a rigor di logica, sarà anche meno utile, certo. Perché con due binari la possibilità, no, per carità, di poter affrontare è inesistente, puoi avere sempre problemi, perché appunto. Però a quel punto installeranno l'SCMT. Però vedi, allora l'Ustif dice tutto a norma di legge, per carità, io posso anche dirti che comunque anche la Ferro Tranviaria i soldi li puoi mettere per la sicurezza anche se non te lo chiede la legge, nel senso che, però devo dire, no, noi eravamo a norma di legge, per cui già vedo lo scaricabarile, il presidente di Ferro Tranviaria Gloria Pasquini che dice noi eravamo a norma di legge. Non avevi tra speso... l'altro è una società ben accreditata, cioè tu citavi le Ferrovie del Sud-Est, autorevoli osservatori stamattina mi dicevano noi ci aspettavamo un incidente nelle Ferrovie del Sud-Est, non lì, perché questa è una società collaborativa, investito sulle carrozze, una delle due carrozze dei due treni, quello giallo con la nuova livrea, è un treno spagnolo che è costato un sacco di quattrini con poltrone in pelle, inserti in radica, aria condizionata go-go, perché alla fine cosa chiedono i viaggiatori? E treni meno affollati e comfort, soprattutto d'estate, qui ci sono adesso più di 40 gradi. Sì, però scusami, tra l'inserto in radica e la barra di Mogano, abbi pazienza per la battuta, però è ovvio che io chiedo sì il comfort, ma la sicurezza, perché come hai detto, guarda. Ma quello i cittadini viaggiatori non lo sanno, perché si affidano a chi gestisce la linea, capisci? Vedono la carrozza, quindi sono spesso le operazioni di marketing che prevalgono sulla sostanza, sulla struttura, sull'organizzazione. Allora, anch'io me lo aspettavo il filo di Sud-Est per quello che abbiamo raccontato, la gestione di Luigi Fiorillo in questi mesi, e come si sono mangiati i soldi in qualunque modo possibile, però insomma non è avvenuto lì e speriamo che non avvenga mai, neanche lì, anche se quella è una vicenda proprio di cattiva gestione, dove ti chiedi ma dov'era la regione, dov'era il resto, dov'era le istituzioni, non si sa. Non lo voglio raccontare perché mischierei le pere con le mele, invece vorrei restare sull'aspetto della Bari Barletta. A questo punto però, Mariano, dopo i morti la responsabilità verrà data, quella penale, a chi ha commesso l'errore. Quello che tu hai capito, un investimento, noi non possiamo aspettare il raddoppio del binario unico, non c'è una possibilità di mettere in sicurezza sta linea e non aspettare un altro errore umano, ma a bloccare e prevenire l'errore umano? Oggi Del Rio ha detto che ha insediato di fatto una commissione d'inchiesta. E mi pare anche questa, con tutta la simpatia, un'operazione politica, avrebbe dovuto dire emaneremo entro una settimana una legge in cui si stabilirà, l'abbiamo già detto, che sulle tratte secondarie tutti i gestori debbano adottare certi regimi di sicurezza. Punto. C'è una legge di un articolo, perché non si fa? Quindi parallelamente almeno alla commissione d'inchiesta. Ma guarda, mi stanno scrivendo gli ascoltatori che vogliono sapere la dinamica, infatti gli ascoltatori vogliono sapere quali sono le tratte ferroviarie a binario unico dove non è previsto nemmeno l'altro meccanismo, non il non sono poche non soprattutto al sud. Ecco, perché questa è la prima domanda che anch'io mi farei. Bene, quella linea ha certo, il sistema, sì. Come si chiama il quello che hai detto che costa meno del sistema il marcio? Il blocco con tassi. Il blocco? Conta assi. Sì, è un nome tecnico, ingegneristico. Che si usava negli anni 60, 70. Perché non è esatto, che... esatto. Perché io ricordo aver fatto più volte la Verona-Bologna binario unico, che non è proprio fosse una linea piccolina, no? Eppure non è che rischiavi la vita. Sì, c'era un... e poi l'errore umano va contemplato. Cioè come fai? Ah, certo, sai cosa ti ripetono qui? Da 70 anni viaggiavano con questo sistema e sì. Non era mai accaduto nulla. Ma è una risposta... No, non è nell'era in cui la tecnologia conta più di ogni altra cosa e detta anche comportamenti umani. Ma infatti mi stanno scrivendo molti ascoltatori che dicono: ma attenzione, che c'è un'app per tutto, ci sarà stata cavolo anche un software senza spendere 180 milioni di euro, infatti, perché raddoppio poi vuol dire appalti, vuol dire gare e spago, ecco, il terreno. Questa cosa dei 180 milioni, molti problemi sono stati a Bruxelles, cioè questa legge per essere vidimata, approvata a Bruxelles, mi dicevano ci ha messo 2 anni e mezzo. Poi ci sono stati i contenziosi sugli appalti, che come sai è un classico, certo, quando ci sono in mezzo i quattrini, e le lungaggini per gli espropri. La sì. Somma di questi tre elementi ha provocato... Però scusami, è come se io avessi deciso di cambiare auto per comprarne una più sicura, ma nel frattempo le pastiglie dei freni e il controllo delle gomme lo posso fare a una cifra molto più modica, non è che dobbiamo per forza aspettare il doppio binario. E la doppia, mi sta scrivendo un altro ascoltore che mi dice che, vabbè, a parte Waze, app di navigazione satellitare gratuita, no, ma c'è un altro che mi ha scritto che esiste, e me lo sono riperso, sono tantissimi, esiste il sistema che tu dicevi che ha dei costi bassissimi, con tassi, sono ben capito. Esatto. Però voglio dire, basterebbe, e questo è l'invito al ministro Delrio, che è persona seria, invece di chiarire, per favore, una riga. Tutti quelli che non hanno un meccanismo di salvaguardia nei confronti dell'errore umano sul binario unico non possono circolare. Usino per un po' gli autobus sostitutivi e poi intanto spendano i soldi, altro che per le carrozze in radica. Grazie, grazie Mariano Maugeri, Traffico. A voi, a presto. Focus Economia. Allora sì, ha ragione chi mi ricorda che a Crevalcore morirono, mi sembra, 17 persone, ahimè, sulla Verona Bologna nel 2005, però c'è anche chi mi ricorda che sulla linea tirrenica già dagli anni 90 sulla linea dell'FS furono installati sistemi blocco automatico, ripetizioni, segnali in treno e telefono terra-treno. Ma sì, dai, adesso l'errore umano, cioè i sistemi di sicurezza esistono proprio perché siamo umani. No, se non fossimo umani non faremmo mai un errore. Allora, adesso verrà crocifisso, giustamente, chi ha sbagliato. Però poi il fatto che non hanno speso un euro per una cosa che esiste in moltissime altre parti di rete unica, a binario unico, scusatemi, nella penisola, questo passerà in cavalleria. Fate la legge, governo Delrio, faccia sta legge, per favore, scriva due righe. No, d'ora in avanti, chi non ha un sistema di sicurezza in caso di errore umano non circola. È difficile far sta roba? Che miseria. E lì altri 1,8 miliardi per reti regionali. Ma non me ne frega un cavolo del 1,8 miliardi per le reti regionali che dà Delrio. Il problema è dire che non circola nessuno che non ha la sicurezza in questo momento come backup, chiamatelo come cavolo volete, nel caso di un errore umano. Da contratto di programma 9 miliardi, chi se ne frega, non è il piano trasporti Delrio, vogliamo sapere se metti fuori legge chi non investe in sicurezza. Allora, sono già finito, per cui andiamo dopo il... no, è che c'ho un nervo per capello su sta cosa. Allora, meno 1,15% la chiusura di borsa, ne parliamo dopo il GR24. Il bio che voglio io deve essere leggero sull'ambiente e su di me. Il bio che voglio io non è moda, né frutto del caso, ma un'idea fantastica da oltre 20 anni. Se l'amore e la passione per la terra hanno un nome, pasta Sgambaro. Sgambaro, Ecco, il bio che voglio io. In caso di infiammazione e dolore puoi provare l'Asonil antidolore, gel antinfiammatorio al 10% di concentrazione di principio attivo. È un medicinale che può avere effetti indesiderati anche gravi. Da Bayer. Se ti dico green, io dico Ambrogio, il robot rasaerba ecologico che si prende cura del tuo giardino. E se dico smart? Rispondo Nemo, il robot rivoluzionario senza fili che pulisce da solo la piscina. E future? Azzurro, il nuovo inverter fotovoltaico che cattura e gestisce l'energia del sole portando il futuro in casa tua. E se dico zucchetti Centro Sistemi? È la tecnologia al servizio delle persone e delle aziende per migliorare la qualità della tua vita e offrire oggi l'innovazione di domani. zcscompany.com. Very green, very smart, very future. Benvenuti a Consigli Mai Visti. Ci scrive Luisa, 54 anni, che non vede mai i divieti di sosta. Multe a non finire. Luisa, comprati degli occhiali. Da Avanzi Optissimo, più anni hai, più risparmi. Tu, 54 anni, 54 euro in meno. Il vigile, 40 anni, 40 euro in meno. La multa, sempre uguale. Nei negozi Avanzi Optissimo del gruppo Grand Vision, più anni hai, più risparmi. E sugli occhiali progressivi il vantaggio raddoppia. Fino al 15/9/2016 su occhiali da vista e vista sole. Info e limitazioni in negozio su grandvision.it. Che piano? Al 5. Da fino al 31 luglio, secondo me, conviene andare al 6. Con 5 uguale 6 di Fiat Professional, passi a Ducato, Doblò e Fiorino con motore Euro 6 allo stesso prezzo dell'Euro 5. Scade il 31 luglio, info e condizioni su fiatprofessional.it. Sulla 7 il calcio è protagonista anche d'estate. Ogni martedì alle 23 arriva Football per scoprire le ultime trattative di calciomercato e rivivere insieme i momenti più belli ed emozionanti della storia del calcio, raccontati da Andrea Scanzi. Football sulla 7, la parola al calcio. Focus Economia. Minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Vedo un messaggio di un macchinista che mi scrive: per la sicurezza nelle tratte binario unico, perché adesso la polemica si sta, ascoltavo il nostro GR24, anche la polemica parlamentare, ma ragazzi, ma non è il tema dei convogli vetusti, erano nuovi, uno e due era nuovo, né del binario unico, perché esistono binari unici assolutamente sicuri, piantiamola di fare sempre sto casino all'italiana. Il problema è l'errore umano e i mancati investimenti, il fatto che in questo paese possono per legge circolare dei treni senza meccanismi di sicurezza quando a binario unico. Allora, scrive un macchinista, dice: per la sicurezza nell'entrata a binario unico senza blocco automatico serve il servizio di pilotaggio oltre al consenso telefonico per essere sicuri al 100%. Il pilotaggio consiste in un macchinista comandato per accompagnare i treni in quella tratta. Logicamente il macchinista non sarebbe partito in caso di errore del capostazione senza il pilota. Tutto ha un costo però e le aziende tagliano i costi. E anche le vite. No, perché è vero che era tutto a regola e quindi c'è una colpa del legislatore, dopodiché nessuno impediva la ferrotranviaria di investire per i fatti suoi invece che comprare vagoni extra lusso in sicurezza, ok? Giusto per dire, è vero che è a norma di legge, perché purtroppo questo paese non ha mai fatto una legge per... Qualcuno mi chiede: ma quanti linee ferroviarie si fermerebbero se uno facesse quello che dice lei, Barisoni? Chi se ne frega? Fai la legge, vedi che gli ammodernamenti partono subito. Sì, e questo punto, con la scusa che devono fare il secondo binario, non hanno investito sulla tecnologia per la sicurezza del primo, dell'unico binario. Ma dai, è palese. Comunque, onore Micheli, Radio Corriere Sole 24 Ore, la borsa. Buonasera. La borsa oggi è andata male, è stata la peggiore d'Europa, -1,15% il FTSE MIB. Sì, e Monte dei Paschi +5,40 sull'ipotesi di la cartolarizzazione, ma male tutte le altre. Banco Popolare -6,60, Ubibanca -6, Pop Emilia Romagna -5, Unicredit -3,80, come la Pop Milano. Insomma, l'idea che la Germania possa cedere su un piano, diciamo, per mettere in garanzia e in sicurezza le banche italiane, non è che entusiasmi la borsa. Sì, poi bisogna fare dei distinguo, ad esempio Unicredit si continua a ragionare sull'eventualità che la banca comunque debba effettuare un aumento di capitale nonostante in due giorni abbia portato a casa circa 1 miliardo, ha venduto infatti il 10% di FinecoBank per oltre 300 milioni di euro e ieri ha annunciato anche la cessione di Banca Pekao per 750 milioni di euro, ma per gli analisti questo non è abbastanza e anche in questo caso sarà probabilmente necessario un rafforzamento sul capitale capitale, anche se si sa il nuovo amministratore delegato è all'opera per individuare anche eventuali nuove cessioni, si parla della banca turca ma anche di altri asset. Hai ragione a segnalare che su Unicredit appunto ci sono notizie specifiche. Telecom Italia meno 5,30%. Telecom Italia è andata giù proprio sul finale, accelerato, nonostante peraltro Moody's quest'oggi abbia confermato il proprio giudizio sui titoli di debito di lungo periodo. D'altra parte in questo caso si ragiona sugli scenari futuri, è vero che Telecom Italia si trova a fare i conti in futuro con la concorrenza di Enel, ma anche a questo punto con la concorrenza di Iliad, la francese Iliad, creatura di Niel, che l'affronterà sul terreno della telefonia mobile. Si sa che in Francia è stata molto competitiva e ha guadagnato oltre il 20% di quota di mercato nel giro di pochi anni. Intanto è scattato già il conto alla rovescia per il CDA di fine mese, che dovrebbe dare i conti del trimestre, dove si vedrà quindi la mano del nuovo amministratore delegato Flavio Cattaneo. Allora, per quello che riguarda invece i migliori, dicevo Luxottica più 3%, Saipem più 2,40% come Ferragamo, Mediobanca più 0,80%, in assoluto oggi sul listino, devo dire che mancano grossissime notizie, Agronomia più 21%, Stefanelli più 8,80%, Banzai più 8%, Blue Financial Community più 7,70%, Fronte Opposto invece Banco Popolare meno 6,60%, Telecom dicevamo Piaggio meno 5%. E 20%, grazie a Eleonora Micheli, Radio Cor, Il Sole 24 Ore. Allora, c'è un paese che ha il maggior numero di siti UNESCO al mondo, da sempre parla della sua arte, delle sue bellezze, del territorio come il patrimonio, il vero giacimento, il vero petrolio, l'oro nascosto, eppure è sceso in 15 anni dal terzo al settimo posto come destinazione turistica, come contributo del turismo al PIL, e l'anno scorso ha perso un'altra posizione, dal settimo all'ottavo posto. Praticamente sono 76 miliardi quello che è il contributo del turismo al nostro PIL, contro Stati Uniti 490, Cina 224, ma siamo anche dietro alla Germania, che ha tante qualità ma non potete dirmi che è più bella dell'Italia, 130 miliardi, il Giappone 100 miliardi, la Gran Bretagna fa 100 miliardi di turismo, la Francia ne fa 90, il Messico 80 e noi 73 miliardi. Il paese, chiaramente l'Italia, e vorrei parlare di questo con, da un lato, il presidente dell'Associazione Italiana Confindustria Alberghi, Giorgio Palmucci, buonasera. Buonasera a lei e ai radioascoltatori. E poi con due ospiti che il turismo lo fanno, lo accolgono tutti i giorni. Da un lato Renzo Iorio, amministratore delegato e direttore generale di Accor Italia. Accor è un leader europeo che ha, se non ricordo male, 4.200 alberghi in 90 paesi. Buonasera Iorio. Buonasera. E grazie anche a Lorenzo Giannuzzi, che è il ministro delegato del Forte Village, che è da sempre considerato a livello mondiale il riferimento per chi vuole fare alta accoglienza. Ma buonasera Giannuzzi, innanzitutto, se ci sente. Buonasera a voi. Ma lei va addirittura, se ho ben capito, a prendersi i clienti con l'aereo, cioè avete pagato un aereo vero e proprio per portarvi i clienti, è così? Assolutamente, abbiamo Benissimo. Dovuto palliare un po' a quelle che sono le mancanze del trasporto strutturale, quindi insomma ci dobbiamo... In Sardegna, che è notoriamente una brutta regione, con il mare brutto. Ma senta, qual è il confronto tra i voli presenti su Cagliari, perché poi di questo parliamo, sì, e i voli per esempio di vostri concorrenti, tra virgolette, tipo Cipro, Malta? Ma guardi, un dato significativo è quello di Cipro. Per esempio Cipro c'ha, giusto per prendere un esempio, 35 voli alla settimana da Londra. E Cagliari ce n'ha 4 a settimana? A settimana, quindi insomma questo le dà un po' un'idea, pur essendo un'isola molto più piccola della Sardegna, è un quinto del territorio con solo 700.000 abitanti. Diciamo, questa è la realtà purtroppo tragica dei collegamenti in Sardegna e in Italia in generale. Iorio, ma abbiamo perso queste, visto che la stagione sta iniziando, tutti a scrivere bene, spenderanno un po' di più gli italiani, più 2,5%, i tedeschi come flussi la faranno da padroni, 6 milioni di arrivi, ma insomma è il problema del, cioè, ma voi venite consultati dalle istituzioni quando bisogna decidere, per esempio, il piano aeroportuale, il piano trasporti o no? Diciamo sul piano aeroportuale e piano trasporti molto poco, veniamo consultati come il collega Giorgio Palmucci quando si tratta, come adesso, di elaborare un piano strategico. Il vero problema e la vera scommessa intanto è quale sarà l'esito dei referendum, perché senza una politica nazionale sul turismo, la capacità del governo di poter decidere la strategia sul turismo, cosa che oggi è demandata alle regioni, effettivamente è una miriade di soggetti che ognuno assumiamo anche con buona volontà, ma cerca di fare le cose che ritiene giuste o ritiene utili al proprio bacino elettorale o di interesse. Quindi, insomma, noi l'abbiamo detto più volte che il turismo è una cosa troppo seria per essere lasciata alle regioni, con il massimo rispetto per le regioni, dopodiché sapete che non sono un grande amante necessariamente delle regioni. Palmucci, dopo il traffico vorrei sentire anche la sua opinione su questo, perché io a un certo momento continuare a commentare ogni anno che perdiamo posizioni come meta di destinazione e come, diciamo, quello che è il portato del turismo sul PIL, il contributo del turismo sul PIL, mi manda in bestia. Dopo il traffico. Focus Economia. Allora, Palmucci, per andare direttamente, per tagliare la testa al toro da questo punto di vista, c'è un problema anche di rapporto con le regioni, cioè con le istituzioni, perché Iorio diceva, io non voglio parlare del referendum per il resto, ma il referendum prevede anche, per quello che riguarda la riforma, l'eliminazione del turismo come delega regionale. È quello, perché io vorrei capire perché continuiamo a perdere posizioni sul turismo. Ma guardi, io sono arrabbiato come lei, come ha detto poco fa, e estendo come Lorenzo Giannuzzi, come Renzo Iorio, siamo da tanti anni, ci occupiamo di turismo, lavoriamo per il turismo e siamo appassionati per il turismo, non possiamo che arrabbiarci anche vedendo di come sia dal punto di vista dei trasporti, perché quello che ha detto Lorenzo Giannuzzi per quanto riguarda la Sardegna, ma lo può allargare a tutta l'Italia, basti pensare soltanto il numero di aerei, di voli che arrivano dalla Germania in Sicilia rispetto ai voli che dalla Germania vanno alle isole Baleari. Adesso c'è una differenza da 1 a 10. E per cui, se lei immagina cosa può offrire una regione come la Sicilia rispetto comunque alle Baleari, dove si può andare, ok, per al mare, una vacanza balneare, però insomma la Sicilia ha già molto più da offrire. Nel momento in cui un piano trasporti internazionale europeo non ha neanche riuscito a prendere vantaggio dal fatto che purtroppo per motivi geopolitici la Tunisia, la Turchia, l'Egitto sono praticamente purtroppo fuori mercato, e ci sono 18 milioni di europei, di cittadini europei che andavano in vacanza in questi paesi, per cui il fatto che ne abbiano approfittato soprattutto la Spagna e soprattutto la Grecia significa che quello che noi chiediamo, quello che ha detto Iorio, la revisione del titolo quinto, cioè il fatto che il turismo debba essere, soprattutto per quanto riguarda la promozione, gestito a livello nazionale, e bisogna andare a promuovere la destinazione Italia nei diversi paesi europei ed extraeuropei in maniera tale che poi venga poi declinato a livello di tipo di turismo, a livello di destinazione, a livello di attrazione e attrattività di una regione piuttosto che di del turismo balneare, piuttosto che montano, piuttosto che la quale è culturale. Cioè è essenziale che questo tipo di promozione debba essere fatta a livello nazionale. Solo Senta, in ma non c'è, maniera non c'è anche un problema di Palmucci, non c'è anche un problema di costi, perché ogni volta che uno prova ad andare da Milano a Palermo le racconterei di quanto costano i biglietti. No, ma dico costi anche delle strutture, per cui ci fanno concorrenza anche sul costo complessivo? Senta, ci sono sicuramente nel mercato europeo, anche dei solo paesi che ho citato, è evidente che nel momento in cui per esempio in Spagna l'IVA è molto più bassa rispetto a quello che è l'IVA applicata in Italia, è chiaro che c'è uno svantaggio competitivo pur facendo parte dell'Europa. In secondo luogo noi dobbiamo tenere presente che nel nostro paese il costo del lavoro è molto elevato, la tassazione, l'imposizione fiscale e tutti i balzelli a cui siamo sottoposti è decisamente elevata, di conseguenza per poter arrivare a quello che noi in gergo chiamiamo il break even point, cioè far funzionare, comunque far arrivare a pareggio una struttura ricettiva, in Italia bisogna avere un tasso di occupazione medio, sì, almeno superiore al 30%, ma non c'è anche Egitto, chi fa il 30, il 20, chi fa il furbo con le stelle, con i servizi offerti. Vabbè, ma no, vede, anche le stelle è sempre un altro problema di che non esiste una ragione per la quale nel nostro paese esistono 22 classificazioni alberghiere. Ogni regione legifera in maniera differente, quando a livello europeo perlomeno mi sembra evidente che un turista che decide di andare in un albergo 4 stelle deve sapere che cosa normalmente quelli che sono degli standard internazionali. Sì, detto ciò, vi ha già superato, ci ha già superato TripAdvisor, perché uno poi le stelle neanche le guarda più, va su quello. Giannuzzi e poi Iorio, invece sui flussi, visto che prima Palmucci citava il fatto che non siamo in grado di intercettare se non marginalmente, lo dico con una battuta, i disastri, le sfortune di altri paesi verso il nostro paese, però come profilo di chi sta arrivando, visto che in questi anni abbiamo visto spostarsi anche il tipo di e cambiare anche il passaporto di chi arrivava, che dati avete Giannuzzi su quest'anno? Tengono quali paesi europei e quali invece si affacciano non europei? Ma diciamo che i paesi europei stanno andando molto bene, anche per le ragioni che ha detto Giorgio Palmucci, cioè vale a dire il fatto che siano venute meno alcune destinazioni che insomma la facevano un po' da padroni su certi segmenti, e diciamo che anche il mercato del paese dell'est quest'anno sembra essere, almeno per quello che ci riguarda, leggermente ripresa, quindi quello è un segno senz'altro positivo. E devo dire che anche il mercato italiano, per quello che ci riguarda, quindi ho un osservatorio, diciamo così, piuttosto limitato, perché il mio è un albergo individuale, quindi non faccio parte di una catena, quindi una visione un po' più ristretta, quindi posso dire che per quello che ci riguarda, insomma, tutti i mercati siano in crescita. Mentre faccio notare a Palmucci che molti ci stanno scrivendo che dicono sì, guardate che l'IVA in Spagna è simile a quella italiana, non lo so, ma che comunque anche alla parte l'IVA noi abbiamo dei costi comunque più alti. Però vorrei sentire Iorio sui flussi, poi magari do la possibilità a Palmucci di rispondere agli ascoltatori. Iorio, che cosa notate come flussi di arrivo? Solo una cosa sui prezzi, che i prezzi italiani fossero più alti di quelli europei è valso ed era assolutamente vero fino al 2007-2008. Oggi io lo vedo dai report di una multinazionale, non ci sono a parità di destinazione delle differenze di prezzo, e parlo di prezzo alla vendita al consumatore. Sui flussi, beh, è importante quello che dice, perché Accor appunto ha 4.200 alberghi in 90 paesi. Quindi voglio dire a Parigi piuttosto che Londra è tendenzialmente un po' più cara di Roma, ma non eccessivamente, quindi Roma è competitiva da questo punto di vista, vale per Firenze, vale per Venezia, vale per destinazioni secondarie, quindi direi non c'è più un problema di prezzo da questo punto di vista. C'è il vero punto di problema vero, che è quello dei flussi, nel senso che la capacità di attrarre di paesi come la Francia e soprattutto la Spagna è nettamente migliore, e anche quei fenomeni che dovrebbero avvantaggiarci, perché oltre a quello citato della crisi di destinazioni tipicamente estive, ma non dimentichiamo il problema sui viaggi europei legati al tema della sicurezza, quindi la crisi che hanno avuto città come Parigi, soprattutto Bruxelles, legati agli attentati, dovrebbe, come dire, favorire un paese che ha molte più attrattive diffuse come l'Italia, e in realtà città come Napoli, Bologna, Torino, Genova stanno crescendo in modo significativo, ma non abbastanza per coprire questo flusso di mercato. Sugli internazionali abbiamo delle crisi che sono legate essenzialmente alla clientela brasiliana, ma perché sono i mercati di emissione, vanno abbastanza bene gli americani, tengono molto bene i russi, crescono in modo significativo cinesi e indiani, e in generale il mercato europeo continua a tenere bene, con anche clientela nord europea. E abbiamo in Italia quel fenomeno che accennavo prima di una difficoltà maggiore su città come Roma e Milano, mentre invece città cosiddette secondarie hanno una crescita anche a doppia cifra. Però, ripeto, siamo lì un po' al palo e non riusciamo ad avere quella crescita che invece dovrebbe avere una destinazione così reputata e così interessante in un mercato globale che a livello mondo cresce del 4,5% all'anno, e ci sono, ahimè, pochi settori così fortunati come il turismo, che hanno dei tassi di crescita generali così ampi. Sì, dall'altro devo dire, tra l'altro, che su questo io quello che ho capito, noi lo facciamo ogni anno la puntata, ho capito che bisognerebbe fare un vero tavolo con gli operatori del settore di eccellenza, grandi come numero, di categoria, insomma, perché sennò non se ne esce. Tra l'altro mi scrivono gli ascoltatori che Giannuzzi, voi avete ricevuto per il 18° anno di Fila World's Leading Resort il premio come miglior resort per passare vacanze. Complimenti, non lo sapevo. Palmucci, vuole rispondere agli ascoltatori che dicono: no, guardi che i costi sono un problema. Ho 30-40 secondi scarsi. Ma no, guarda, basta comunque andare, come ha detto giustamente anche Renzo Iorio, di andare a vedere attraverso portale, attraverso TripAdvisor, vedendo quelli che sono i prezzi. E l'Italia non è di sicuro più costosa. Sicuramente noi abbiamo dei costi del lavoro, ripeto, e di imposizione fiscale che sono comunque superiori rispetto ad altri paesi europei. Però io dico una cosa, poi ci sono le colpe, le responsabilità dei singoli, degli operatori, anche dei privati, ci mancherebbe. Però è chiaro che se tu non hai una regia strategica nazionale, si può usare questo termine, in cui decidi quali aree puoi sviluppare meglio. Se l'Enit, ancora non ho capito bene che cosa ne sia successo dell'Enit, mi dicono che a Dubai alla fiera del turismo lo stand dell'Enit era il più penoso di tutti, e vabbè, ecco, iniziamo diciamo da una visione strategica e poi iniziamo a dare le colpe anche ai singoli e vedremo, e li mettiamo in competizione. Grazie comunque a Lorenzo Giannuzzi, General Manager del Forte Village, a Renzo Iorio, amministratore delegato e direttore generale di Accor Italia, e a Giorgio Palmucci, presidente Associazione Italiana Confindustria Alberghi. Da Sebastiano Barisoni è veramente tutto, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.